Somma di sbagli, di incroci, di strade da cui non sapevi distrarti. Noi, rassegnati al passaggio di una cometa lunare, creatori di metafore, di idee da proclamare. Le nostre felicità, sorridiamo e cantiamo la nostra crudeltà. Cosparso.